mondo moderno è un mondo perfetto. Dici? Dove tutti hanno la televisione a colori. Click. Una selezione di martini. Nell'impianto Hi-Fi sono il disco del momento, un disco dei... Jerry Langeri. Signore e signori, il nostro samba. Al cuore si comanda, sento il samba giù nella gamba che mi provoca sensazioni. Vai, vai, vai, vai. Se la tua testa sbanda, se la vita ti sembra stramba, no, non preoccuparti. È il ritmo che risale nel tuo peo, pe, peo, pe, pe, pe, peo, pe, peo, pe, pe, pe, samba, samba. Samba, ci va bene. Peo, pe, peo, pe, pe, pe, peo, pe, peo, pe, pe, pe, samba, samba. Samba, ci va bene. Quando ti capita una pozzanghera, schivala, schivala, e specchiati, riflettici. Quando ti capita una rivincita, vivila, vivila, è il ritmo che risale nel tuo peo, pe, peo, pe, pe, pe, peo, pe, peo, pe, pe, pe, samba, samba. Samba, ci va bene. Peo, pe, peo, pe, pe, pe, peo, pe, peo, pe, pe, pe, samba, samba. Samba, ci va bene. Sale su per la gamba, questo sia maledetto samba. Accidenti a chi me lo manda, assessore. Occhio a chi ti comanda, chi ti aggancia con questo samba, ben inteso tra noi rimanga, non ballare. Vai, vai, vai. Peo, pe, peo, pe, pe, pe, peo, pe, peo, pe, pe, pe, samba, samba. Samba, ci va bene. Peo, pe, peo, pe, pe, pe, peo, pe, peo, pe, pe, pe, samba, samba. Samba, ci va bene. Peo, pe, peo, pe, pe, pe, pe.